Salvatore Russo a Radio Rock Italia alle 20:39, in nettissimo ritardo sulla tabella di marcia. Mi ero addirittura dimenticato Gabriele Vasquez e Francesco Aloa. Come va? Alla grande. Strano che ti eri dimenticato. No, beh, tornato dalle vacanze, dico, figurati se questi sono tornati dalle vacanze pieni di, che ne so, attrici, cose, andiamo a quel festival, a quell'altro, andiamo a trovare il nostro amico che sta lì, andiamo a trovare quel regista che sta là. E invece inesorabili, pronti da 20 minuti come Rosencrantz e Guildenstern. Che bugiardi. Siamo morti. Che sono dei bugiardi. Allora, bentornati, bentrovati. Vai. Siete sempre più belli e splendenti di una prima. Una nuova esaltante stagione. Esatto, pronti? Sì, prontissimi. Abbiamo 35 film in 20 minuti. E ci siamo preparati, Prince. Guarda qua, come Tiziano ai bei tempi tuoi. Ah beh, Tiziano, aspetta. Ieri... Quando vale Tiziano in piedi. In piedi. Perché, Tiziano... Ok. Ieri bagno di folla per Niola a Piazza Vittorio. Niola incontra Carlo Verdone. Straordinario. Mille persone. Sta facendo, non è vero. Adesso tu mi cosa. Dici perché non mi hai chiamato. Infatti lo dovevamo chiamare. Sono infortunato, però sarei venuto lo stesso. Ero d'accordo. Allora, sta facendo la cosa. Lui ha incontrato Carlo Verdone a Piazza Vittorio. E tra l'altro è successa una cosa che io non sapevo, perché io per motivi di lavoro ho visto Carlo Verdone parecchie volte alle conferenze stampa, però sempre in eventi chiusi, cioè una conferenza stampa o qualcosa, una presentazione di qualcosa. E non sapevo che Carlo Verdone non può girare per Roma come Totti, alla stessa stregua. Beatles. Cioè, mi raccontava Beatles. Francesco che lui a un certo punto doveva arrivare, non arrivava, lo chiama, dice: guarda, io sono in macchina qua fuori, ma mi dovete fare un cordone, sennò io non riesco a entrare. Gli un cordone tipo Berlusconi con la gente: Carlo! No, ha detto. Ho rovinato la giornata. Beatles, lo vedi che lo devi dire le cose. Devi, ma sei andato in vacanza? Devi sentire. Beatles. Sette giorni. Si sente. No, lui poco. Poco. Però siamo pronti, Prince. Abbiamo grandi idee, faremo grandi cose quest'anno. Lo so, vi sento delle cose incredibili. A palla di cannone. Com'è andato l'incontro? Bene? Bene, molto bene. Lui è un matto, poi gli piace la musica rock. Molto simpatico, molto bello. C'era Niola, che comunque è stato, diciamo, importante. Il cascherino. C'era. Importante dal pubblico, dall'altra parte della cosa. È andata benissimo. Ma prima hanno proiettato un film, immagino. Abbiamo parlato di Io, Loro film. E Lara. Che mi dicono sia anche un bel film. Sì, no? Stavo stroncato da qualcuno, da qualche giovane critico. A qualcuno non è piaciuto, pare. È un Verdone tenebroso. Verdone tenebroso. Un po' gotico. Un po' prete anche. Un Verdone che si prende i peccati dell'Italia. Quest'Italia di merda. Vabbè, comunque basta. Vabbè. Cinema. Parliamo di cinema. Abbiamo 25 film, vai. Allora, volevo parlare di crocifissi nelle scuole e niente. E invece parleremo di cinema. Via. Bruno Vespa. Allora, a Sanremo. Sì. Subito, un film da evitare. Informazione di servizio. Un film che è meglio che non vi vediate. Indovina chi sposa Sally. Una specie di sembra una produzione per la televisione irlandese. Una cosa fatta veramente in maniera svogliata e con un po' di naivete. Una cosa veramente triste, ecco, forse triste. Il titolo italiano vuole cavalcare un po' tra Indovina chi viene a cena. Poi Francesco pure mi ricordava Harry di Sentoselli, vuole cavalcare mille cose diverse per attirare il pubblico in un prodotto che in effetti non ha nessun soprattutto mordente. Vuole cavalcare una donna, però vuole cavalcare, esatto, la sua protagonista. Questa è una cosa stranissima. Loro fanno questo titolo in cui c'è questa, si capisce che la protagonista si chiama Sally. In realtà la protagonista non si chiama Sally. E perché hanno fatto perché questo? Perché Sally è il nome dell'attrice, ma l'attrice non è nota, è Sally Hawkins. Ha fatto un film molto bello che era La felicità porta fortuna, che però è un film di nicchia che abbiamo visto in quattro. Il mio nome è Robert De Niro. Esatto. Ma che film è? Sì, tra l'altro. Ciao, ti presento. È una Robert. Tradizione cinematografica che c'è nel passato, Gerrissimo, abbiamo ricordato. Cioè, a volte anche Totò non si chiamava Totò nei a film. A volte capitava anche ai registi, titolo. Prince. Cioè, Fellini a un certo punto aveva il nome nei titoli. No, sì, certo, no, qualcuno lo faceva. Però la stranezza è che questa qua non è nota, Sally Hawkins. Vabbè, diciamo, come è brutto, non ce ne frega niente. Esatto, questa era un'informazione di servizio. Però non è proprio bruttissimo. Perché lui lo so che non è d'accordo. Cercavo di buttarla in cacciata perché so che lui non è d'accordo. Delle cose, ci sono per esempio tre stregacce lesbiche che sono molto simpatiche, molto divertenti. Ma sai che nella sala si sentiva solo lui che rideva? Sì, io ridevo per le lesbiche. Giuro, perché solo lui che che rideva. Io dicevo, ma è possibile che è Francesco solo che ride? Ero con la mia compagna, mi stava sarà facendo quello. Delle cose strane. Sarà per, io speravo che fosse per quello. Ok, via, fine, vai. Fine, sono prossimo. Arrivati 300 messaggi, vedi. Tra cui il nostro che non ci facevi entrare, va bene. Sì, ma arriva in ritardo. Facci entrare, ti prego. Ecco. Vabbè, film allora, belli prossimo. Da vedere. Allora, vai, no, vai. Francesco ha visto una cosa che io non ho visto, ma avrei voluto vedere. Il remake capita di sempre. Nightmare. Ha visto lui? Ah, com'è? Però comunque non urlare, no? Dobbiamo essere molto ti concentrati, ti però ti senza ti urlare. Detto, allora lui è serrato, è serrato. No, no, guarda, comunque mo Prince sta stagione ce penso io. Allora, comunque. Già in capo, già in capo, ma rendiamoci conto. Serratissimo. Allora, fa schifo. Non dico un vero incubo per fare il giochetto da critico con le battute. Allora, Nightmare, stanno rifacendo da tanti anni, ormai 5-6 anni, remake di horror con i mostri meravigliosi degli anni 70-80. Hanno rifatto tutto, da Jason a Leatherface, a Faccia di Cuoio, quindi da Venerdì 13. Hanno aperto quella porta, mancava solamente Freddy Krueger, che è un mostro dell'edonismo reganiano degli anni 80, partorito dalla mente prolifica di Wes Craven. Allora, è arrivato Nightmare, com'è, voi mi chiederete. Fa schifo l'approccio, fa schifo questo Freddy che è più porco che orco, vedi, bello, questa era bella, più porco che orco, diciamo, uccide i ragazzi di Springwood, Ohio, entrando nei loro sogni, entrando nella loro carne, è un demone, è arrabbiato, la incazzato nero, la sappiamo tutti. Ho capito, ma perché, insomma, allora, ustionato, allora, è orribile perché c'è una componente sessuale che veniva accennata nell'originale di Craven e qua è troppo esplicita secondo me, e quindi è più porco che orco, mentre prima era solo Boogeyman, orco delle fiabe. Poi Freddy fa schifo il trucco, Prince, fa schifo il trucco, sì. Il trucco di Robert Englund, era bellissimo perché era sardonico, ghignante. Ma non c'è lui? No, non c'è Robert Englund, ritenuto troppo vecchio, c'è Jake Earl Haley, che è un bravo attore, ex attore bambino, tornato in auge con un film dove faceva il pedofilo, e sulla pedofilia gioca anche Nightmare, e tornato in auge con Watchmen, dove faceva Rorschach. E però non va bene il trucco, è un Freddy tristissimo, desolante, annoiato, noioso, non va bene proprio. Mentre invece, una domanda diretta, sì. Ma paura, c'è una scena, no, di paura? No, yeah, okay, no. Ma andiamo avanti, non c'è una scena di paura. Ti voglio dire, Prince, che questo regista, Simon Bayer, è un regista di videoclip, ha fatto Love Filthy Lesson di David Bowie, è un regista di videoclip, di tantissimi videoclip, non va bene perché è tutto molto patinato, quindi l'orrore, come mi chiedeva Gabriele, non c'è mai. Film bello da vedere. Film, allora, sai, oh, questa settimana a mio parere non c'è. Questa settimana, un mese che non ci vediamo, no, questo allora, mese. Noi stavamo sull'attualità, vabbè, sul pezzo. Attualità allora, vera. Allora, no, c'è, per me c'è. Ah, dimmi, vai, qual è? C'è Il Rifugio, Eroinomani. Ah, io non l'ho visto. Allora, Eroinomani, quindi Parigi, ricchi, eroina. Uno ce lascia la pelle, lei è incinta. François Ozon, regista gay francese, ci piace. A me piace molto Ozon. Qualche titolo di Ozon. Swimming Pool, Sotto la sabbia, Charlotte Rampling, Otto donne e un mistero, bravissimo regista francese. Quello col bambino Angelo, allora, questo è un film che non citate troppo, non citate allora, troppo. Allora, insomma, c'è il lago all'inizio, poi c'è il mare, ti piace questa cosa, poi c'è il mare, non c'è il lago, però la donna ex eroinomane va con il figlio in panza dell'eroinomane schiattato, va al mare e incontra il fratello gay di lui, da lì strano rapporto, strane giornate, strane passeggiate, bellissimo, sorprendente, alla fine poi bah, non è bello neanche questo, no, invece è molto bello, sorprendente, dici, finale. Bah, finale, no, lo dico perché già ho detto tutto. Devo dire che veramente mi chiedo del capolavoro di Muccino. Ah, Junior. È uscito il trailer del nuovo film di Silvio Muccino, fratello minore. A Gabriele è piaciuto. Mamma mia, è una storia equasolidale di, diciamo, a detta grandi linee, di lui che ha un rapporto con questo bambino africano, in sostanza, per dirla proprio a grandi linee. E già dal trailer si vede che è molto simile al precedente film di Silvio Muccino, che era un capolavoro di comicità involontaria, spettacolare. E questo pure, diciamo, che noi la Juve ha preso Quagliariella, hai capito? Diciamo che questo film, noi che non paghiamo per vedere i film, lo attendiamo, perché comunque ci si diverte. Poi chi paga magari posso capire che non ci va. Un film bello questa settimana. Allora, questa settimana secondo me no, però in sala potreste trovare Pietro, che è uscito settimana scorsa, che è un film italiano di Gaglianone, che è passato al Festival di Locarno e che a me è piaciuto molto. È una storia molto urbana di un ragazzo subnormale che addirittura io pensavo fosse interpretato da un vero subnormale, in realtà no, è un attore, ed è molto interessante, ben fatta, molto, non vuole essere toccante, non è quei film che ti vogliono far commuovere, ti vogliono ricattare moralmente, anzi è un film molto duro dove a un certo punto ti senti quasi in imbarazzo perché accadono delle cose dure, e a me poi piace molto quando un film ti violenta sulla sedia, e questo lo fa molto bene. Tre domande secche. Tron quando esce? Stallone come il film? Tre moschettieri che ne sapevate? E l'ultimo dominatore dell'aria? Tre più una, l'altra è gratis. Vai, telegrafico. Allora, su Stallone non, incredibilmente io e Francesco non ci siamo ancora confrontati. A me è piaciuto da impazzire. Anche a me. Ah, bene, sono contento. È un film sulle donne. Esce settimana prossima, non questa settimana. Sì. Quindi magari però è un film dove ti dà. Vabbè, ne parliamo, grazie Mario. Ti dà tutto quello che vuoi avere, te lo dà subito. Spara tutto, dove alla fine esplode tutto. L'unica particolarità è, per gli amanti proprio di Stallone, del suo cinema, non sembra un film di Stallone, sembra più un film di Schwarzenegger, sembra più Commando. No. No, come c'è più cuore, cioè nei più film cuore. Di Stallone solitamente il primo nemico è il protagonista stesso, cioè lui c'ha sempre un suo problema interiore. E ce l'ha anche qua. Ma qua è proprio è Mickey Rourke che glielo risolve. Ma c'è no, una scena di Mickey Rourke, guarda, c'è un monologo di Rourke, qui loro vanno pelle d'oca, addirittura straordinario, dove c'è Stallone che è in crisi e Rourke gli spiega che deve fare e c'è la donna di mezzo. È un film sulle donne questo, sul potere delle donne. Va bene, parliamo la prossima settimana quando uscirà. E anche sugli esplosivi, diciamo, su queste due componenti. Sulle donne esplosive. Sì. Tron 12 gennaio. Poi. Poi altra domanda qual era? Tre moschettieri. Eccolo qua. Vedi, c'è il danese. Vedi? Eccolo qua. Eccolo. Mi piace a me questo danese. Mads Mikkelsen. Ha fatto pure il cattivo in Casino Royale. L'ultimo dominatore dell'aria. Allora, Shyamalan. Shyamalan è l'amico. 24 settembre. L'amico indiano, sì. Allora, dicono. Si leggono delle cose agghiaccianti dell'ultimo dominatore dell'aria. Noi Shyamalan gli vogliamo bene, Sesto Senso. Io meno, No, io gli senso. Voglio un sacco bene. Sesto Senso è Unbreakable. Resto. Sembra molto male. Sembra molto male il dominatore dell'aria. Vabbè. Ok. Vabbè, prego, andate avanti, prego. Vai, ci abbiamo altri. Andiamo avanti. Vai Shrek, vai con Shrek. Andiamo con Shrek. Vabbè, ma non mi incazzare così. Allora, più orco che porco. Decido io. Andiamo con Shrek. Allora, Shrek, a me Shrek era sempre piaciuto, perché? Ma fermati, ma andando avanti con la saga, è totalmente decaduto e qui va veramente in vacca, perché vende la sua anima. La sua anima era un ribaltamento delle favole, una visione più moderna di quello che può essere una parabola educativa, che passa anche per la cattiveria, che non per forza dobbiamo essere buonisti. L'uccellino che esplode. Buoni. Esatto. E invece qua è un orrendo pseudo quarantenne in crisi, che quando ha il matrimonio desidera di non averlo e quando non ce l'ha desidera averlo. Sì, ci ha rotto le palle. Non solo, la particolarità di questa cosa è che loro avevano. Shrek non è un personaggio originale, cioè viene da una fiaba esistente, da uno scrittore moderno, ma è un personaggio che è soggetto ad un altro copyright. La DreamWorks aveva acquistato il copyright per farci film per soli 10 anni. Ora i 10 anni stanno scadendo e quindi in fretta e furia ne hanno fatto un altro, un ultimo, giusto per monetizzare gli ultimi soldi. Che dalla trama sembra un episodio di una serie televisiva. Ma è uguale al terzo, poi soprattutto. Poi è uguale al terzo. C'è Shrek che c'ha paura, che si è annoiato della vita coniugale, c'ha i bambini che vomitano, puzza, le puzze. Allora lui dice: devo tornare mostro. Che palle la borghesia. E Shrek in crisi con la borghesia. Allora arriva il classico folletto che gli dice: se facciamo questo patto io ti farò rivivere la tua vita da orco per solo un giorno. Ma in realtà il folletto lo frega, perché quel giorno era proprio il giorno in cui lui sarebbe nato. Quindi in realtà in quella realtà alternativa lui non sarebbe mai nato, nessuno lo conosce e deve cercare di tornare nel suo vero mondo, riconquistando la fiducia dei propri. Rotto le palle Shrek. Sì, esatto. Soprattutto non fa ridere. Cosa fondamentale, non fa ridere. Nemmeno vi salutano Claudino, che salutiamo, Claudino, e anche il nostro Plinio, il nostro Oliere. Baci. Beh, e quindi anche vedi, a Claudino no, Baci a tutti. No, a Claudino. Vedi che la nuova linea la nuova linea è baci per tutti. No, vedi anche che stanno cominciando a capire un po' la nuova, questa siamo maggiormente compatti adesso. Lei era incinta sul serio, mi dico. Lei è Isabel Carré. Era incinta sul serio, bravissima attrice. Andate a vedere Il Rifugio, perché insomma. Qui mi hanno dato il link del film proprio. Giustizia privata invece esce anche. Giustizia privata è un film ignobile, in cui è uno di quei film in cui il cittadino normale si incazza praticamente e si fa giustizia da solo. Allora, come citiamo il più importante degli anni 70 di questo che film. È il coso Giustizia della notte, prodotto da diretto da attaccava le prese chi? Diretto da ah, diretto da dovrei sapere, Michael, non ricordo. Non mi ricordo. Winner, non ricordo. Interpretato da? Vabbè, Charles Bronson. La Pantera. Però parliamo di un'estate indimenticabile, Sharm el Sheikh, come Enrico Brignano. Esce tra un po', esce tra due settimane, tre settimane, una cosa del genere. Sì. Non l'abbiamo ancora visto perché ci vuole troppo. Aspettiamo. Un cocomero panettone. Fuori tempo massimo, perché siamo quasi in autunno. Sì. Strano film. Chissà. Ma insomma, Giustizia privata invece, dicevamo, è un film con Gerard Butler, ex 300, Gerard Butler, e Jamie Foxx, che ha fatto il film biografico su Ray Charles e Miami Vice di Michael Mann. Non citate, non abbiamo tempo, niente citazioni, diciamo, non abbiamo tempo. Gerard Butler subisce un torto, gli violentano moglie e figlie, è una cosa che tende a farti arrabbiare, le quali muoiono anche in questa violenza. Lui invece va solo in ospedale, si sveglia, va dall'avvocato che è Jamie Foxx e gli dice: incastriamo questi qua. Non ce la fanno a incastrarli, cioè l'avvocato non ci riesce, ne incastra solo uno dei due colpevoli. Lui impazzisce, si prende tipo 10 anni di tempo, scompare, torna dopo 10 anni. Che ha orchestrato come Veltroni un piano impossibile. Ha orchestrato un piano di quelli. Cioè, io 10 anni fa avevo già previsto tutto per vendicarsi. No, lui ci ha messo 10 anni per orchestrare questo piano. No, e infatti è proprio cervellotico, perché se ci pensi. 10 anni proprio. Walter dopo 2 anni ha scritto quella lettera bellissima al Corriere della Sera. Gli sono bastati solo 2. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, insomma, c'è Gerard Butler, c'è Jamie Foxx, nonostante questo il film e attenzione, no, e scavano un tunnel sotto la prigione, una cosa che non si vedeva da una vita, il tunnel sotto la prigione. È vero. E quindi no, non va bene. Vabbè, altri film, il regista è un afroamericano che non ci piace. Tu hai visto Letters to Juliet? Sì, bravo. Mi è piaciuto. Com'è? Non ci sono le lesbiche. Sì, allora è un film per signore e quindi io, essendo una signora, l'ho adorato. C'è, sì, perché è proprio bello. C'è questa donna vecchia che viene contattata da questa donna giovane e c'è l'amore, un amore tormentato, un amore impossibile. C'è la ragazzina che vuole lavorare per il New Yorker, che va in Italia e prende Vanessa Redgrave e le dice: stai quasi per morire, sei vecchia, ma io ti porto a trovare l'amore della tua vita. Che indovina chi è? È Franco Nero, che poi Franco è il vero Nero. Amore di Vanessa Redgrave. Si sono conosciuti sul set di Camelot nel 67. Ma veramente Franco Nero? Si sono anche sposati, Allora, cioè, è proprio un film. Ma dove... quanti anni è che non faceva un film? No, poco. Faceva delle cose ignobili, ma le faceva. Sì, vabbè. Volevo dirle. Io amo Franco Nero. Franco Nero per me è un mito. Io è un mito. Noi possiamo chiudere gli occhi. Ho rivisto Che Oma, quello. Ma lo vedi? Questo è il nuovo Tu stai parlando di un film capolavoro. Vuoi che ti portiamo il regista qui? Una sera? Ma davvero? Enzo, cioè, lo portiamo immediatamente. La vecchia che passa. Ma che meraviglia. Ma i sogni, vecchia... lui che sta dentro i suoi flashback, ti ricordi? La vecchia che passa. Enzo G. Castellari. Guarda, te lo dico io. Sono appassionato di film di portiamo di Enzo. Western. Italiani, naturalmente. E Che Oma è il primo film western gotico. Sono d'accordo. Perché ha queste rappresentazioni che sono proprio dark, ma in una maniera incredibile. La colonna sonora, non a caso, Oliver Onions. Esatto. Ma la colonna sonora è uno dei primi brani di musica. Tu non ci crederai adesso, perché di musica dark. Dark, o meglio, di folk apocalittico. I De Angelis l'hanno fatto. Sì, di folk apocalittico. Grandi De Angelis. Allora, facciamo una puntata. Faremo una puntata su Che Oma. Ante litteram. Sì, insomma, gran bel film. E Franco Nero lì era meraviglioso. E quindi, insomma, ci piace. Letto sto giro, c'è Franco Nero, ma devi vedere qui in che forma è. Arriva a cavallo a un certo punto. Se prende Vanessa. Ma è una meraviglia, Franco Nero. È quell'Italia che, insomma. Che Oma, che film, ci piace. Ma che film che mi hai ricordato? Che film bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Ma ti porterò un bellissimo DVD. Cioè una nuova edizione bella. Ma veramente? Sì, te lo regalo. Te lo porto la settimana prossima. Ma guarda, mi fai un regalo. È il nuovo corso. Quasi come se mi facessi un. È mai successo vinile con quello che. Assolutamente no. Non è mai successo un momento di questo genere, un momento così emozionale. No, ne sono successi, ne sono successi. Abbiamo avuto i nostri momenti, diciamolo. Comunque c'è anche Remo Remotti che fa il dito medio come Umberto Bossi in Letters to Juliet, c'è Angelo Infanti, altro grande caratterista del cinema italiano, c'è Fabio Testi. Ma questo però è un momento in cui... A me piace Letters to Juliet. Ma tutti... Senti, a me Letters to Juliet mi piace, me lo so visto con la mia donna che lo odiava, invece io che sono una signora vedevo queste donne, l'amore, l'Italia, un momento in cui stanno uscendo un sacco di film fatti americani, fatti in Italia con gente italiana, esatto. Che tra poco esce The American, esatto, con George Clooney, tutto fatto in Abruzzo con un sacco di gente italiana. Allora, in The American c'è un cameriere abruzzese che poi è un prete toscano in Letters to Juliet, Gabriele, l'ho riconosciuto. Voi che siete drogati. Comunque veramente me lo porti il DVD? Sì, te lo porto settimana. Ma l'hanno rimasterizzato? Sì, è molto bello. Non farti comprare con... Dai, e poi cerchiamo di fare una telefonata con Enzo. La settimana prossima abbiamo il regista in diretta. Magari. Ok, sarà fatto. Magari. Anticipiamo. Facciamo, avremo Enzo Castellari. Quello lo adora Tarantino. Settimana prossima non siamo qua. Settimana prossima siamo al Festival di Venezia. Allora lo facciamo appena torniamo. Va. Facciamo tutta la puntata che Oma. Queste promesse che non può mantenere. Nuovo corso. Che Oma e Django sono due film. Wow. Straordinari. Sergio Corbucci e Enzo Castellari, grandi registi. Ma bene, andiamo avanti. Nella settimana. Django è con Franco Nero, no? Sì. Quello che porta la bara. Sì, esatto. Che alla fine gli spaccano le mani. Che è il anche lì c'è un altro. È il film più violento della storia del cinema, del western italiano. Era molto truculento. Corbucci li faceva apposta. Ma a parte è bellissimo. Bellissimo. Vabbè, prego, andiamo. Prego, diciamo. Abbiamo finito? Settimana prossima inizierà il Festival di Venezia. Noi non ci saremo, ma vi faccio una cosa. Noi saremo andati a Venezia. No, non saremo qui. Tu sicuramente sì, Alò. No, io ho il suo bagagliaio. No, io ci avrò un accredito anche quello. Io ci avrò l'accredito. Lui c'ha l'accredito potente. Io ci avrò l'accredito disperato. Io ho cercato di farglielo avere. Mi hanno detto Alò. Lui faceva finta di cercare con me, ma in realtà dice: non glielo date. Vabbè, Prince. Invece ci tengo a dire una cosa. Noi settimana prossima non ci saremo, per cui non potremo consigliare un film. Però saremo in telefonia. Però siccome parleremo di Venezia, non potremo consigliare un film che esce settimana prossima e che si chiama, un titolo orrendo purtroppo, che è Amore a mille miglia. Un titolo bruttissimo, ma in realtà è un film molto bello. È una commedia sentimentale americana, diversa dal solito, molto carina, molto sveglia, molto divertente. Con due veri innamorati. Vedi come Vanessa Redgrave e Franco Nero. Solitamente queste commedie sentimentali giovani sono giovani con giovani, ma sono scritte da vecchi, si vede. Questa invece è una commedia scritta da una persona che ha l'età dei personaggi raccontati. Che ne sai? Si vede. Mi chiedono se avete parlato dell'ultimo film di Castellari. È quello che ti indicavo, Francesco. Purtroppo è uscito un film di Castellari il 20 agosto che io dovevo andare a vedere. Questo faccio ammenda. Avevo preso io l'incarico e proprio non sono riuscito. C'è una serie di impedimenti mi hanno impedito di andarlo a vedere in anteprima e non l'ho visto. Si chiama Caribbean Busters e non a caso riprende il suo vecchio film che Tarantino poi ha ripreso, eccetera, eccetera. Cioè Inglourious Busters. Purtroppo non l'ho potuto vedere. Quello che ho letto da altre persone che non sono io hanno detto che non è granché, però non l'ho visto. E però forse è ancora al cinema, non lo so, perché è uscito il 20 agosto. Beh, però a noi a Enzo gli vogliamo bene a prescindere. Assolutamente. A prescindere. Abbiamo finito, se non avete altro da aggiungere. Non lo so, dopo il consiglio di Amore a mille miglia, non ho. Sì, però Stallone, vedi, nuovo corso, adesso ti dico una cosa, Gabriele. Ecco, nuovo corso. Stallone esce a metà della settimana prossima, quindi noi dovremmo parlare anticiparlo. Vabbè, adesso ci penso siamo io. Ancora in tempo. Adesso vedrai qualcosa che su Stallone? Stallone è un film molto complesso, dobbiamo dedicargli più tempo. almeno 5 mesi. Sì, film. No, possiamo molto dire che sta andando alla grande in America. In America ha fatto il botto. Senza che fosse previsto, cioè non si credeva che sarebbe andato così bene. Sì. Spero che vada molto bene anche in Italia. È effettivamente un film d'altri tempi, ha anche una colonna sonora d'altri tempi, dei rock anni 80 proprio. The Boys Are Back in Town. Esatto, questa roba qui mette. Alla fine. E insomma è veramente una serie di sequenze d'azione messe con una frequenza tale che non si usa più oggi, proprio da anni 80. Uno sparadutto H24. Sì, per carità, è diretto da Stallone, è un po' diretto con i piedi, però tanto cuore. Ci piace. Però ce n'è una fenomenale, secondo me, una proprio si distingue dal gruppo, che è quella della fuga in idrovolante. Sì, che è proprio bella. Molto bella. E dei tanti, loro sono molti, no? I mercenari sono tanti attori molto famosi, però i veri protagonisti sono due: sono Stallone e Jason Statham. Mm. E lì sono loro due solamente che fanno quella sequenza d'azione. Ed è già tutto il cinema di Stallone, cioè questa violenza, questa azione esasperata, ma con un sacco di cuore. Sì, si percepisce proprio. C'è un monologo di Mickey Rourke, ragazzi. Ancora. Allo specchio, che dice a Stallone. La donna, il ruolo della donna. Senti, io devo chiudere la mia sigla con una frase. Io faccio, sai, ho le mie sigle, ogni anno le cambio. Mi serve la frase finale. Qual è il suo problema? Chiede Stallone. Qual è il suo problema? Chiede Bruce Willis a Stallone dopo che Schwarzenegger va via da questo incontro a tre epocale in una chiesa, giustamente, tre divinità. Qual è il suo problema? Stallone guarda Schwarzenegger che va via e dice: vuole fare il presidente. E Schwarzenegger ammicca. Ma veramente? Sì, è un momento altissimo. Già solo questa sequenza, ragazzi. Il pubblico, che era tutti i giornalisti, hanno comunque applaudito. Era una figura di fan. C'è questo incontro. Ma lui fa un cameo. Sì, fa un cameo. Che poi è bellissimo, perché c'è Bruce Willis che dà il lavoro a tutte e due. E il cameo è assolutamente gratuito, perché Schwarzenegger, Willis dice: lo vuoi il lavoro? Chi lo vuole il lavoro di quei due? Sono uguali, sono due grandi mercenari. E Schwarzenegger fa: no, a me non mi interessa, arrivederci. Però comunque vai in chiesa. Sì, è assurdo. Devi andare in chiesa. Ma anche com'è, si vede girare in 4-4-8. Questi... Non c'è Seagal. La Seagal è un po' scemo, ha rifiutato lui. Mi sa che anche Van Damme, hanno rifiutato. Sì. E invece ti faremo tutta la descrizione di come sono tutti gli altri, perché è veramente bello come lui utilizza queste icone. Ma ormai sono finiti sia Steven Seagal che Van Damme. Seagal sta nel nuovo film di Robert Rodriguez, Machete, che starà a Venezia, mentre invece Van Damme si era ripulito con JCVD, quel film che aveva fatto se stesso, che secondo me era bellissimo, era un film straordinario, però poi non ha rifatto un altro film d'azione di serie B, insomma. Non ha fatto quei due, sono un po' scemi. Invece quelli là di cui lui si è circondato sono molto intelligenti. Lo so. Quelli là sono un po' scemo. C'è il grandissimo, poi tanto in tutto il film c'è uno solo che mena per davvero grandissimo, che è Jet Li. Veramente è bello, che si lamenta. Parleremo molto di Jet Li. Jet Li ha un ruolo molto importante, è l'asiatico che si lamenta. Ma quando ne parliamo? Dice: mi date i soldi, mi date i soldi. Quando ne parliamo è una buona domanda, quando ne parliamo. Allora, da Venezia parleremo solo di dei mercenari. Ogni giorno un personaggio. Però vi dico questo. Vi chiedo questo: chi vincerà Venezia? Madonna, difficilissimo, la scatola chiusa. Dio mio, te lo diciamo venerdì. Una sorpresa, secondo me, sarà. C'è sarà uno una grande sarà una grande sorpresa. Che poi appunto là su due, perché sono tutti famosi. Sì, esatto. Tanto è un'edizione molto ricca. Cioè, quest'anno stanno tutti a Venezia. Sicuramente non un italiano. Beh, ci sta Saverio Costanzo. Vabbè, dai. No, perché unisce possibilità di fare una cosa buona con agganci giusti, unisce le due componenti. Senti, azzardo? Un giapponese vincerà, secondo me. Un giapponese, perché c'è Tarantino in giuria. Vincerà Takashi Miike e Leone d'Oro. Beh, e sarà rivoluzione epocale proprio. Qua c'è chi fa giustamente l'inchino. Grazie a tutte e due, ci sentiamo venerdì prossimo via telefono e poi sentiamo in settimana, insomma. Grandi cose. Fare altre cose. Grandi cose quest'anno. Il nuovo corso. Grazie. Baci a tutte e a tutti, vi ricordo che Una pietra che rola l'Accademia Suco. Ciao, grazie, a lunedì per quel che mi riguarda, e vi lascio nelle mani di Mario Tagliaferri.